24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:20 minuti in questo istante, eccoci qui cari ascoltatori, 24 mattino in diretta fino alle 9. Nel nostro sondaggio oggi parliamo della protesta clamorosa che c'è stata per 17 giorni, conclusa ieri dagli immigrati che si sono issati su una gru a Brescia, sono scesi ieri tutti e quattro. E protestavano contro quello che dicevano lo scandalo dei permessi di soggiorno negati. Noi vi chiediamo una protesta che condividete, è una protesta così molto plateale, condivisibile o meno? Questo è il tema del nostro sondaggio, ne parleremo alle 8:30 con i diretti interessati, cercheremo di capire che sorte avranno ora, perché sono scesi ieri, sono stati portati in questura. E poi che dire? Iniziamo come di consueto dalla lettura dei quotidiani in edicola. In primo piano. Martedì 16 novembre, l'apertura del Sole 24 Ore, salto triplo per l'euro, Tremonti e Marcegaglia al fondo, piccole e medie imprese, crea lavoro, resterà dopo la crisi. E intanto c'è anche un focus sull'Irlanda, la situazione debitoria del paese irlandese. E poi ovviamente la politica in questi giorni domina le prime pagine dei quotidiani generalisti, crisi, si muove Napolitano per il Corriere della Sera, Repubblica, via i finiani dal governo, è crisi. Per la stampa Berlusconi, l'addio dei finiani. Il giornale, i ministri lasciano, Fini no. Il fatto, Fini lascia Berlusconi, Bersani, vieni via con me. E così via. Per Libero è peggio del ribaltone. L'Unità, bugiardi, mette Calderoli e Berlusconi in primo piano. Sciogliere una camera, quando cadde Prodi, dissero, sarebbe eversivo. Vedremo anche altre aperture dei quotidiani più avanti. Io vorrei partire da una segnalazione che trovate in prima pagina di Repubblica. Vi ricordate un po' di tempo fa io vi ho raccontato che negli Stati Uniti la pena di morte è stata in alcuni casi o sospesa perché? Perché manca il farmaco per l'iniezione letale. Quindi un problema tecnico, non che mettano in dubbio gli stati dove c'è la pena di morte negli Stati Uniti, il sistema in sé. Ebbene, leggete la storia che c'è in prima pagina di Repubblica. Londra denuncia, da un'azienda lombarda arriva il veleno agli Stati Uniti per la pena di morte. L'Italia non ha la pena capitale, racconta Enrico Franceschini, ma potrebbe presto contribuire attivamente a uccidere condannati a morte. Un'azienda farmaceutica con base vicino a Milano, la Ospira SPA, è stata incaricata di produrre sodium thiopental. Si tratta dell'anestetico utilizzato per le esecuzioni con iniezione letale negli Stati Uniti. Da gennaio, infatti, la società milanese, che è sussidiaria di una multinazionale americana, dovrebbe esportare la sostanza negli Stati Uniti, che ne sono rimasti a corto e non possono più giustiziare nessuno con questo metodo usato in 35 stati su 50. Enrico Franceschini ne parla in prima pagina e poi due pagine interne, pagina 16 e 17, è una ONG britannica, Reprieve, cioè vale a dire sospendere, riferito lotta contro la pena di morte, che dice abbiamo scoperto questa cosa, siccome negli Stati Uniti non si produce più questo, ecco che questa Ospira SPA americana ha chiesto alla sussidiaria italiana di Liscate, in provincia di Milano, di produrre il sodium thiopental da destinare ai penitenziari americani. E questa ONG britannica dice avete due modi per bloccare questa iniziativa. Il primo è una decisione volontaria dell'azienda di fermare questa produzione del farmaco. La seconda è che il governo italiano emetta un bando all'esportazione di questo anestetico. Per la verità Repubblica va a sentire anche Giuseppe Riva, che è l'amministratore delegato della società, lo intervista Davide Carlucci, e che dice ma scusate, noi produciamo un anestetico. Faccio un paragone, chi produce coltelli da cucina è responsabile se qualcuno li utilizza per uccidere? Noi non possiamo farci niente, dobbiamo convincere gli Stati Uniti che la pena di morte non è il giusto rimedio per combattere il crimine, ma noi produciamo quello che è a tutti gli effetti un anestetico. Se noi smettessimo di fornirlo lo farebbero altri, il medicinale non ha alcuna indicazione di impiego nella pena capitale. Noi come azienda non supportiamo il suo uso in questa procedura, ma semplicemente facciamo un anestetico. E beh, insomma, è una storia comunque che crea dibattito. L'altra segnalazione la do da Stampa, ma anche il giornale vi dedica una pagina. È un po' un vizio italiano. L'ASL degli assenteisti. Solo che in questo caso a Brindisi, dove ci sono stati 24 arresti, La vicenda è ancora più inquietante, racconta Carmine Festa sulla Stampa pagina 14. Vabbè, insomma, un po' di assenteisti, no? Quelli che timbrano il cartellino, poi andavano a fare spese, andavano a fare altre cose. Il problema è che arrestati 4 medici, 9 infermieri, 8 impiegati, un tecnico radiologo, 2 addetti alle pulizie, altre 45 persone denunciate. Il problema è che era un vero e proprio sistema, perché molte di queste persone assenteiste poi andavano, sono state beccate a lavorare in aziende private, in cliniche private, per cui il sistema, secondo i magistrati, era creare truffa al Servizio Sanitario Nazionale. E inoltre, al Servizio Sanitario Nazionale, se uno andava a chiedere una mammografia, bisognava aspettare più di un anno. Perché? Per anche queste dosi massicce di assenteismo. 200 giorni per una visita oculistica. Uno a quel punto che fa? Si rivolge a una clinica privata per fare prima. E magari in quella clinica privata trovava le persone che erano contemporaneamente assenti dalla ASL pubblica. Tra l'altro una vicenda simile raccontata sul Giornale a pagina 16, che racconta appunto questa di Brindisi, timbravano il cartellino all'ASL, poi lavoravano in centri privati, questo a Brindisi, ma anche a Caserta, assenteisti e ladri, nei guai 50 dipendenti degli autobus. È l'azienda di trasporto pubblico di Caserta, in conconti al disastro anche per queste dosi di assenteismo molto molto spinte. E poi molti di questi che facevano? Distruggevano gli autobus della azienda pubblica in modo da favorire i concorrenti privati. E vabbè, così va un certo tipo di Italia. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e ripartiamo dalla politica. In primo piano. Nella politica si registra certamente il giorno in cui il capo dello Stato Napolitano ha convocato Presidente di Camera e Senato oggi pomeriggio per parlare della situazione di crisi, dopo che i Fignani si sono dimessi dal governo. Tra l'altro alle 8.20 avremo ospite nell'intervista il ministro dimissionario Ronchi, ministro delle politiche comunitarie. Allora, Quirinale in campo, convocati i presidenti delle Camere, così il Corriere della Sera, pagina 3, con Marzio Breda che fa l'analisi di quelli che sono i passi del capo dello Stato. Il punto nodale, secondo anche Federico Geremicca, il notista di politica sulla Stampa, a pagina 3, è questo. Evitare lo scontro date, ecco la missione del Colle. Sapete che c'è un tema sulle due mozioni presentate, una alla Camera di sfiducia da parte dell'opposizione a Berlusconi e una invece al Senato di fiducia proposta dal PDL per il Presidente del Consiglio. Quello che vuole evitare, secondo Federico Geremicca, il capo dello Stato, è il braccio di ferro tra Camera e Senato su quale debba essere l'aula parlamentare a discutere e a votare per prima, perché il tema è dirimente, in quanto al Senato sicuramente la maggioranza c'è, mentre alla Camera è più dubbia dopo la fuoriuscita dei Fignani, dipende molto dai Fignani. Ecco allora che Federico Geremicca dice si vuole trovare una soluzione che sia rispettosa delle procedure, della prassi e che non suoni mortificante per alcuno. Per questo Napolitano ieri ha svestito per un momento i suoi abituali abiti di notaio della crisi per indossare quelli di pompiere, o se si vuole di dispensatore di buoni consigli. Ecco dunque la convocazione di Presidente di Camera e Presidente del Senato. La posizione di Berlusconi, secondo la stessa Stampa, Ugo Magri, è questa, sintetizzata a pagina 4. Resistere, resistere. Berlusconi spera nel contro di Baltone, è convinto, secondo Ugo Magri, che non appena lui cessasse di essere premier, qualche PM ne chiederebbe l'arresto, la Camera lo concederebbe. Proprio così, teme di finire in manette. Questo spiega, virgolettato ma in anonimo, sconsolato chi gli vive a fianco, racconta Ugo Magri. Sta di fatto che Berlusconi, anche per Repubblica con Francesco Bei a pagina 3, ha detto anche alla Lega, ieri ha incontrato Bossi e i maggiori rappresentanti della Lega, non esiste alcun piano B, cioè o c'è la fiducia o se non c'è la fiducia si va alle urne. Il Cavaliere stoppa le trattative del Senatur, la crisi pilotata è solo una trappola, così su Repubblica. E è un Berlusconi anche che pensa di andare in TV. Questo lo annunciano sia Corriere della Sera sia Libero. La mossa: vado in TV e parlo agli italiani. Così Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, pagina 6, vuole andare in televisione, spiegare agli italiani ciò che sta accadendo. Una serie di apparizioni in TV che sono in fase di programmazione a Palazzo Chigi. Non è detto che l'intenzione reale sia poi concretizzata, ma sta prendendo forma. Per Libero è molto più concreta questa idea. Silvio va in TV, spiegherò a tutti le bugie di Fini. È Salvatore Dama che a pagina 6 ne scrive e dice: potrebbe già domani sera partecipare a Matrix su canale 5 e poi ha intenzione di programmare una lunga serie di ospitate. Devo elencare alla gente le cose fatte dal governo in questi anni, ha spiegato Berlusconi. Silvio vuole puntare il dito anche contro il vero responsabile di questa incomprensibile crisi, vale a dire il presidente della Camera Fini. Che sia un momento di grande tensione anche all'interno della maggioranza. Ieri lo si è scoperto, no? Con l'intervista che l'onorevole Giorgio Straquadagno ha fatto prima al Corriere della Sera in mattinata. Io quando l'ho letto sono sobbalzato, poi lui ieri era nostro ospite alle 8:20, ha minimizzato, no? Lui ha fatto le pagelle di chi secondo lui all'interno del Popolo della Libertà sta veramente convintamente con Berlusconi e quelli invece un po' freddini tipo Alfano, Gelmini, Frattini, ha fatto i nomi, la Carfagna. Berlusconi si è molto adirato. Oggi la Santanchè, che invece Straquadagno ha messo tra quelle dure pure con Berlusconi, la Santanchè fa un'intervista al Corriere della Sera, pagina 6, a Fabrizio Roncone e dice: senta, mi faccia fare un appello, dobbiamo stare uniti. Sono stata chiara, noi del Popolo della Libertà. Eccola qui. Sa cosa dice di lei Straquadagno? Che se incontra qualcuno che trama contro Berlusconi, lei lo morde alla gola. Certo, ha ragione, lo sbrano. E sa perché? Perché io mi sento in guerra. E mi comporto di conseguenza. Chi va da Santoro ad Anno Zero? Io. Chi rilascia interviste di fuoco? Io. Perché io non ho paura di difendere Berlusconi. Mentre altri, chiede Roncone, ho capito a cosa allude, ma dice la Santanchè, dobbiamo essere granitici, uniti, quindi non farò un nome, non cado nella trappola, sono tutti bravi, i ministri, tutti bravissimi, non farò un nome perché anche mezzo nome può danneggiare la nostra battaglia. Al che finisce l'intervista e Fabrizio Roncone racconta alla fine dell'intervista, Daniela Santanchè chiede, si è capito che devono venire tutti, ma proprio tutti, in trincea? Ma trincea? Guerra. Questo è il clima politico. Mentre Frattini rilascia un'intervista a Libero sotto la dicitura lo scontro finale, che si chiama l'Armageddon. I veri traditori del Cavaliere cercateli tra i suoi ultra. Eccolo qui, mi accusano di essere freddino. Risponde a questa intervista di Straquadagno che ha veramente fatto scalpore. Io certe battute sono incaute. E mi accusano perché tante volte nascono da un eccesso di buona fede, ma voler fare gli iper berlusconiani si danneggia Berlusconi. E quanto al PDL, eviterei la logica dei sit-in che non aiuta Berlusconi, certo, a meno che non si arrivi al ribaltone, in quel caso non esiteremmo a far sentire la nostra voce con ogni mezzo. Comunque dice, mi accusano ma io sono fedele e leale a Berlusconi come sempre. Che il clima politico sia davvero un po' confuso, oggi lo scrive anche Vittorio Feltri in prima pagina del giornale. Tra l'altro dice, ma come Vittorio Feltri è stato sospeso? Sì, ma Vittorio Feltri ha fatto sapere, finché non mi notificano la sospensione dell'ordine per 3 mesi dai giornalisti, io continuerò a scrivere. E oggi scrive l'editoriale di prima pagina. E scrive Feltri concludendo, l'unica certezza per ora è l'incertezza, sono tempi di manovre oscure, manca soltanto una notte dei lunghi coltelli e non sono pochi quelli che stanno affilando le lame. Accidenti, guerra, trincea, notte dei lunghi coltelli. Bisogna aggiornare il lessico della politica ultimamente. E certo, risuona anche quel traditori, compiuto il tradimento, come ha detto il ministro Sacconi riferito ai finiani che sono usciti dal governo, tradimento, parola losca, questo è l'editoriale di pagina 3 del Foglio, il primo della pagina degli editoriali, tradimento è parola losca, un residuo della guerra civile ideologica del XX secolo. Non ci sono traditori badogliani in una società aperta, laica, in cui la politica è atto di volizione libera, di associazione libera, di libera partecipazione alla vita civile. Spiace dover ricordare questa elementare verità di cultura liberale a un ministro socialista come Maurizio Sacconi. Il cavaliere può dare legittimamente battaglia, si annuncia una guerriglia dura, senza esclusione di colpi, ma la polemica contro il ribaltone ha un suo sviluppo storico e Fini, che dal PDL è stato espulso, ha ricevuto un trattamento bastonatorio e imbarazzante, non è un traditore. Fini è stato capo partito quando Berlusconi si occupava d'altro. E poi ancora, non c'è alcuno scippo come nel 94, il governo può essere sfiduciato, il Quirinale ha atteso la prova del rispetto del voto popolare. Niente schiamazzi nel frattempo, ma nulla in contrario ai toni duri, ma sulle cose e non sulle persone. Questo l'editoriale di Giuliano Ferrara, che da qualche giorno, sapete, da quel famoso "si sta come d'autunno", no? La poesia di Ungaretti, "Soldati", si sta un po' smarcando, comunque sta criticando anche i toni molto duri da parte del centrodestra. Mentre per Libero, che la situazione sia molto confusa, ecco Libero spara in terza pagina, o meglio anche in prima pagina, questa notizia. Attenzione, il Quirinale mira a rifilarci Amato. È un po' il nome nuovo che esce, perché in genere si parlava di governo B, Berlusconi bis, con però non Berlusconi ma Tremonti, Draghi, poi che altri nomi sono fatti, Pisanu sicuramente come presidente della commissione antimafia per un governo tecnico. Il nuovo nome che esce ora è Amato. Secondo Franco Bechis, vice direttore di Libero, il Quirinale mira a rifilarci Amato. Pagina 3, occhio al Quirinale, vuole rifilarci colui che in due manovre finanziarie con un decreto legge scassinò i conti correnti di tutti gli italiani portandosi via il 6 per 1000, il politico che in meno di un anno riuscì a spremere dalle finanze pubbliche due manovre da 30.000 e 93.000 miliardi di lire, in tutto 63,5 miliardi di euro di oggi. Roba da fare sembrare Babbo Natale, Romano Prodi e Vincenzo Visco del 2006. Dunque, secondo Libero, il Quirinale sta tessendo il filo pensando proprio a Giuliano Amato. Ma insomma, anche questa è politica. Certo, politica è anche molto la vittoria di Pisapia, di Giuliano Pisapia, alle primarie della candidatura a sindaco del centro-sinistra a Milano. È l'apertura del manifesto "Ricomincio da te", con Giuliano Pisapia immortalato in una foto con i suoi fan, esultante dopo la vittoria alle primarie, su Stefano Boeri. Il miracolo di Pisapia è un'intervista a pagina 2 e 3 del manifesto. Segnalo che Pisapia è stato intervistato anche da Marco Morino sul Sole 24 Ore a pagina 22, su La Stampa da Marco Alfieri a pagina 9. E certo, però, questo ha in qualche modo terremotato il Partito Democratico, perché come scrive il Corriere, paura e rimpianti, lo psicodramma degli sconfitti, con il Partito Democratico che certo si vede sorpassato dal candidato, che è il candidato Vendoliano. Tanto che Vendola, in un'intervista a Repubblica, Vendola negli Stati Uniti per un tour, incontrerà tra gli altri anche Schwarzenegger, il governatore della California, o ex governatore. Pagina 11 di Repubblica, Angela Quaro: ecco un segnale per il centro-sinistra, la vittoria di Pisapia è stata una gara bellissima, un segnale in primo luogo per il centro-sinistra, perché le primarie si confermano un passo importante. E quindi Vendola dice: non rinunciamo a noi stessi, le consultazioni sono decisive. Ne volete ancora per capire un po' di confusione della politica in questo istante, prima del traffico? Secondo un retroscena raccontato dalla Stampa da Amedeo La Mattina, Scajola sarebbe pronta a passare con Fini. Scajola, l'ex ministro, che però dice "io in fuga", chi lo dice è un verme. E io non mi occupo di vermi, lavoro per unire e non per dividere. Sono berlusconiano, sono nato berlusconiano e politicamente intendo morire berlusconiano. Guerra, trincea, notte dei lunghi coltelli, traditori e vermi. Ecco la politica attuale, il traffico. In primo piano, Ruby con la scorta. Mancava anche Ruby. L'aggiornamento sul Fatto Quotidiano a pagina 7. Gianni Barbacetto e Antonella Mascali raccontano le novità su Ruby. Ruby poi ormai andrebbe chiamata Karima El Marug, detta Ruby Rubacuori. Con lei che fu arrestata, fu fermata, la famosa telefonata, la presenza del consiglio alla questura, insomma sapete ormai un po' tutto. E quanti soldi ha preso da Berlusconi? Su questo si interroga Il Fatto. Un migliaio o 5-7 mila, oppure come dice Dago Spia ieri 375 mila euro in due tranche. E poi Ruby con la scorta, perché agli assistenti sociali, secondo Il Fatto, Ruby ha raccontato gli spostamenti verso le case di Berlusconi con tanto di agenti e autista. Tutto questo lo trovate a pagina 7. Vabbè, abbandoniamo questo momento della politica che tanto ci accompagnerà per giorni e giorni. Andiamo al Sole 24 Ore, salto triplo per l'euro. Questa è l'apertura, come detto. L'euro è sceso ieri nuovamente sotto 1,36 dollari, ai minimi da settembre, anche se la finanza mondiale si interroga soprattutto su Irlanda, Portogallo e Grecia. Debiti di tre paesi, l'Irlanda soprattutto in primo piano, l'Europa cerca il piano salva Dublino, così racconta Adriana Cerretelli a pagina 3, perché oggi all'Eurogruppo, domani c'è l'Ecofin. Ecco le misure per fermare il contagio irlandese. C'è un piccolo problema però a seguire. Intanto Adriana Cerretelli dice potrebbero essere dopo Irlanda forse anche il Portogallo o la Grecia, ovviamente a seguire la Spagna, addirittura in prospettiva anche l'Italia, il vero incubo che tormenta i tedeschi per esempio e anche la BCE. Il problema è però riguarda l'Irlanda. Come salvarla visto che l'Irlanda per ora non vuole essere salvata? Perché un accordo non è imminente, perché Dublino non ha presentato nessuna richiesta d'aiuto. Infatti ieri il vicepresidente della BCE, Victor Constancio, ha invitato l'Irlanda a riflettere bene sul da farsi. Lo Stato irlandese è finanziato, è vero, fino a parte dell'anno prossimo, però c'è il problema delle banche al centro dei problemi del paese. Il concetto è, si può discutere di un paese come salvarlo, ma insomma per il momento questo paese non ha dato segnali di voler essere salvato. Però il tema dell'Irlanda e del debito irlandese è al centro dell'Ecofin, dell'Eurogruppo e dell'Ecofin in questi due giorni. Io ricordo il tema del nostro sondaggio che trova molti spunti di cronaca e molte pagine sui giornali. Dopo 18 giorni di protesta sono scesi dalla gru di Brescia i quattro, erano rimasti in quattro, immigrati irregolari che protestavano contro quella che loro dicono la truffa della mancata regolarizzazione del permesso di soggiorno. Il loro destino ora è un po' incerto, c'è chi dice che hanno patteggiato e non verranno espulsi e mandati nei centri di espulsione. E c'è il sindaco che sarà nostro ospite, il sindaco di Brescia alle 8:30, che dice in realtà non abbiamo concordato nulla. I quattro immigrati scendono dalla gru, applausi, urla e slogan, questo per il Corriere, ma anche Libero, immigrati giù dalla gru, ma ora Libero dice, ora una città paralizzata, hanno tirato sassi e pipì sulla polizia, ora paghino i danni. Quello che noi vi chiediamo è se condividete questa protesta oppure no, una protesta certamente disperata con toni anche di scontro. Ne parleremo alle 8:30, vi chiediamo secondo voi se è una protesta legittima nei modi e nei toni. Voglio segnalare che il Sole 24 Ore, pagina 33, pubblica l'ordinanza, molto interessante il documento, per l'emergenza Veneto, dunque tutti coloro che sono in Veneto, tutti coloro che hanno subito dei danni, tutti coloro che vogliono sapere se e come potranno rientrare nei danni, nella possibilità di recuperare dei soldi per i danni conseguiti, visto che commissario delegato all'emergenza è stato nominato il governatore del Veneto Zaia. Ebbene, c'è tutta l'ordinanza a pagina 33 del Sole 24 Ore per capire come si possono ottenere i risarcimenti. Arrivo alle segnalazioni conclusive, eccola qua. Ogni tanto c'è il giudice, poi mi scrivono i giudici arrabbiati dicendo non siamo tutti così, ma per carità, lo so, però ogni tanto c'è quel giudice quel tribunale che decide che le multe in Italia vanno annullate, anche se sono multe da pagare. Se le multe arrivano col postino, non si pagano. Tenetevi forte, Il Giornale, pagina 18, Pietro Vernizzi, il tribunale di Abbiategrasso, tribunale civile, ha accolto il ricorso di un avvocato perché gli sono arrivate a casa delle multe, cartelle esattoriali relative a contravvenzioni stradali, ma la legge stabilisce che a versare il dovuto, per versare il dovuto Bisogna farlo solo se la comunicazione di Equitalia viene recapitata non dal postino, ma dall'ufficiale giudiziario. Cioè, se la multa vi arriva, la richiesta di soldi da Equitalia, vi arriva tramite la posta ordinaria, invece che tramite un ufficiale giudiziario proprio su mandato di Equitalia, voi potete non pagarla. E il Tribunale dei Civili di Diabete Grasso ha detto, ha ragione questo avvocato. L'avvocato si chiama Stefano Benvenuto, si era opposto a 9 cartelle esattoriali perché erano arrivate per posta ordinaria e quindi tutto respinto. Io dico, caro avvocato Stefano Benvenuto, le faccio una domanda se all'ascolto. Ma queste multe lei le ha prese perché ha commesso 9 infrazioni della strada, sì o no? Se è sì, le paghi invece di fare la zecca garbugli. Il GR. 24 mattino. L'intervista. Quando sono le 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare l'onorevole Flavia Perina di Future Libertà. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a voi. Direttore del Secolo d'Italia, che oggi titola Il coraggio di dire no. Allora, Future Libertà è fuori dal governo. Vi hanno dato dei traditori. Il ministro Ma Sacconi. Veramente hanno dato del traditore persino a Straguadagno, quindi francamente mi sembra che si usino parole grosse in questo momento che non corrispondono alla realtà. Era tra l'altro nostro ospite Straguadagno ieri, ma un tradimento politico è una frase così grave? Ci può stare, voglio dire? No, è un rovesciamento della realtà, questa è un'assunzione di responsabilità politica per rimettere in moto il paese, quindi questo è proprio un classico rovesciamento della realtà. C'era un governo in panne da mesi, abbiamo cercato di rianimarlo, non ci si è riusciti e l'unica strada per rimettere in moto il paese in questo momento è avere un passaggio che porti a un governo più attivo. Più attivo, ma con Berlusconi? No, secondo me senza Berlusconi. Questo è il punto, perché chiaramente dal punto di vista di Berlusconi perché non bisognerebbe chiamare tradimento tutto questo? Voglio dire, è stato eletto dal popolo anche con l'appoggio dei finiani, di quelli che... E tutto questo è stato determinato dalle sue scelte politiche in gran parte, no? Il vero tradimento è stato quello di cacciare Fini e la componente finiana dal partito 3 mesi fa. Quello è stato un atto di tradimento perché con lui avevamo sottoscritto un patto e chiedevamo semplicemente una libera circolazione delle idee all'interno del partito. E questo ha determinato la rottura del progetto con cui ci eravamo presentati agli elettori, che era quella di un grande soggetto politico unitario del centrodestra. È stato tradito quel progetto e queste sono le conseguenze di quel tipo di scelta politica, che io non chiamo tradimento, sono scelte che si fanno in politica. E lui ne ha fatto una, noi ci siamo assunti la responsabilità di dire la verità al paese. Ma voi a questo punto Berlusconi fa bene però a dire o c'è la fiducia o si vada a votare, un qualcosa che le urne, che qualcuno dice voi temete molto. Ma in realtà mi sembra che non ci sia più questa grande preoccupazione dell'urna, noi siamo fortemente incoraggiati anche dalla costante crescita dei sondaggi, credo che al di là di questo tam tam sulle urne, che serve soprattutto per spaventare in qualche modo i molti deputati e senatori del PDL che si rendono conto che insomma dovrebbero essere adottate altre soluzioni per la crisi, il vero timore delle urne ce lo abbia sia il PDL sia la Lega. Addirittura dice... Ma perché? Sì, certamente, perché la stessa Lega sa che non potrebbe rispettare il principale impegno che ha preso con il suo elettorato, che è quello del federalismo. Noi abbiamo visto 3 giorni fa addirittura chiudere il sito della Lega per le tantissime proteste contro il governo che stavano arrivando dalla sua base militante, e sappiamo che nel vertice di ieri la Lega si è fortemente divisa sulle indicazioni da dare al Presidente del Consiglio. Ma è davvero così dirimente stabilire se queste, adesso ci sarà la legge finanziaria, la legge di stabilità, poi stabilire se si vota prima alla Camera o prima al Senato, le mozioni di fiducia da una parte e sfiducia dall'altra? No, questo non solo non è dirimente, questo è affidato ai regolamenti, alle regole che esistono per la Camera e il Senato. Lo svolgimento della crisi è affidato alla responsabilità del Presidente della Repubblica, quindi è un argomento dal quale i partiti dovrebbero, non dico tenersi alla larga, ma che dovrebbero affrontare con prudenza e con la consapevolezza dell'esistenza di una griglia di regole molto precise. Però c'è la fiducia alla Camera, Flavia Perina cosa vota? La fiducia al governo? No. Io no, non la voto la fiducia al governo. E i Finiani, c'è la linea e questa sarà? Mi sembra molto chiaro, è su tutti i giornali da giorni, insomma. I finiani chiedono un passo indietro del Presidente del Consiglio. E qualcuno dice che è successo... Non è che era... No, questo sì, però qualcuno dice che è successo rispetto a un mese fa quando la fiducia ci fu. Fu l'ultimo... È successo che un mese fa noi abbiamo dato la fiducia su un programma in 5 punti di cui non si è cominciato nell'arco di un mese neanche a vedere l'ombra, perché non uno dei provvedimenti, delle iniziative, delle riforme annunciate è arrivato nemmeno a un tavolo di discussione. Per un mese abbiamo sentito parlare di molti problemi privati del Premier, di molte difficoltà dell'Italia, ma non c'è uno di quei 5 punti che sia arrivato neanche a un tavolo di discussione. Questo vuol dire stallo e il Paese non può permettersi in questo momento uno stallo di questo tipo. La ringrazio, ovviamente buona giornata, Flavia Perina, Futura Libertà, onorevole anche direttore del Secolo d'Italia, che oggi titola Il coraggio di dire no, e c'è la delegazione del governo di FLI che è uscita dal governo. Ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi parliamo di questa protesta, sicuramente singolare, sicuramente spettacolare nei modi, 18 giorni sulla gru per una serie di immigrati, sono partiti in di più, sono scesi alla fine in 4, hanno desistito, protestavano contro il permesso di soggiorno che dicono loro è stata una truffa, la regolarizzazione di qualche anno fa. E noi vi chiediamo una protesta che condividete nei modi anche spettacolari, nei modi anche che hanno portato a scontro. Qualcuno dice oggi Libero titola provocatoriamente e ora paghino tutti i danni per il fermo del cantiere, perché hanno tirato a volte sassi contro la polizia, anche sacchi di urina. Ne parliamo tra poco, votate su radio24.it oppure se volete intervenire in diretta 800 24 0024. 24 mattino. Alle 8.32 minuti, eccoci qua. Allora parliamo della protesta che è spettacolare anche nei modi, certo che ha suscitato molte polemiche, finita ieri di... Prima erano in 8, poi sono rimasti in 4 immigrati clandestini che si sono issati sulla gru a Brescia e sono rimasti lì 18 giorni perché protestavano contro quella che per loro era una sanatoria truffa del 2009. Vi chiediamo, secondo voi, una protesta condivisibile nel nostro sondaggio di oggi? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 61% per il momento votando su Radio24.it dice no, non è una protesta condivisibile, non è che così che si protesta, evidentemente anche se ci possono essere dei diritti per i quali uno si può battere. 800 24 0024. Intanto io voglio salutare l'onorevole Savino Pezzotto dell'UDC. Buongiorno onorevole. Buongiorno. E così come saluto il sindaco di Brescia Adriano Paroli del Popolo della Libertà. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Ovviamente si è trovato a gestire anche come situazione, immagino, di primo cittadino e di ordine pubblico insieme alla questura questa situazione. E intanto fatemi salutare l'avvocato Manlio Vicini. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Dell'associazione Diritti per Tutti. So che sta andando in questura. Ci spieghi intanto la situazione, cioè questi 4 immigrati sono scesi, c'è stata una trattativa, cioè che ne sarà di loro? Hanno ottenuto qualcosa? Hanno ottenuto con il loro gesto di dare visibilità a un problema reale che aspetta ancora delle risposte, e poi hanno ottenuto sostanzialmente delle garanzie riguardo alla loro posizione personale, e cioè di non essere soggetti dopo la loro discesa a provvedimenti di espulsione o di trattenimenti in centri di identificazione ed espulsione. Questo dopo aver analizzato la loro situazione giuridica e quindi nel pieno rispetto della normativa vigente. Cioè, traduciamolo, avranno un permesso di soggiorno? Loro sono in condizione di uno addirittura è in condizione di vedersi accolta la domanda di regolarizzazione. E altri 3 potranno avere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia in relazione alla loro posizione processuale, perché sono sottoposti a indagini per il reato di occupazione di suolo pubblico, e anche in qualità di parte offesa, perché sto curando la stesura di denunce di sfruttamento nei confronti di quelle persone italiane e straniere, intermediari, datori di lavoro che hanno fatto commercio di permessi di soggiorno, sì, di contratti di lavoro irregolari, falsi, venduti a fondi migliaia di euro. Cioè dice in modo da denunciarli per ottenere. Però mi scusi, permesso di soggiorno per motivi di giustizia, le chiedo, senza questa protesta ovviamente non l'avrebbero ottenuto. Quindi si... No, capisce il senso della domanda, voglio dire. Sì, però penso che non posso possa essere letta questa soluzione che è individuale e temporanea come un accoglimento delle loro richieste e una vittoria della loro conseguente alla loro destra, alla loro avvertenza. Le domande che ponevano sono altre, erano soluzioni generalizzabili che pongano rimedio alle torture, di cui immagino parlerete, della legge di regolarizzazione, e queste risposte non ci sono ancora e sono le risposte che credo la politica dovrà dare. Sì, e infatti qui abbiamo Savino Pezzotta e Adriano Paroli. Sindaco, intanto inizierei da lei. Come ha vissuto questi giorni e cosa ne pensa di questo? Come lo definirebbe? Un ricatto? Una protesta legittima fatta in modi sbagliati? Come la definisce? La città ha vissuto queste giornate, questa protesta come una ferita, perché Brescia da un punto di vista della tradizione, quindi del passato, ma del presente, ci auguriamo del futuro, è sempre stata città attenta ai bisogni della persona, chiunque essa fosse, e città solidale. Questa protesta ha invece dato un'idea, un panorama nazionale, di una città che aveva creato problemi agli emigrati, cosa che non corrispondeva alla realtà. In più, disagi che lascia voi immaginare per l'occupazione di un cantiere, che è un cantiere della metropolitana e che a Brescia si sta costruendo, quindi anche con qualche danno economico non da poco. E ne avete quantificati? Per un blocco stradale che impediva l'accesso al centro. Li avete quantificati i danni? No. Tra l'altro sono danni che dovranno essere quantificati dalla nostra partecipata Brescia Mobilità, che sta costruendo la metropolitana con un ATI che è un'associazione temporanea d'impresa che sta svolgendo le opere. Ma al di là di quello, il tema, perché la sua domanda credo sia adeguata, hanno ottenuto qualche cosa? Io credo che abbiano ottenuto un po' di visibilità, ma non abbiano ottenuto cose diverse da quelle che potevano ottenere nella normalità. Quello che è successo ha un punto di vista umano condivisibile. Questi sono ragazzi che pongono tutte le proprie speranze nella possibile permanenza in Italia. Allo stesso tempo sappiamo che questa regolarizzazione riguardava colfe badanti e lì di colfe badanti non ce n'erano. Quindi dal punto di vista dei diritti e della situazione di torti subiti, da quel punto di vista non esistevano. Se ci fossero state situazioni diverse, questo lo andremo ad appurare, cioè di truffa, di denuncia da parte loro, quindi di situazioni illegali alle quali sono state sottoposte, questo lo potevano fare anche prima. Potevano avere diritto. Che cosa è accaduto? Credo che l'avvocato Vicini, insomma, dicendo quello che ha detto, confermi questa tesi. Erano in una situazione molto delicata. Tra l'altro, mettiamoci nei panni, io credo che molto abbia anche condizionato questi ragazzi il fatto che nei loro paesi di origine, dopo che fai una cosa di questo tipo, non sai che cosa ti succede. Sì. Quindi in Italia questo fortunatamente ecco, erano molto spaventati dalle conseguenze. Credo che il prefetto abbia agito nel modo adeguato, non potendo cambiare la legge, dovendo applicare la legge, però evitando provvedimenti immediati, dando la possibilità a questi ragazzi di difendersi. Mi faccia invece sentire il parere dell'onorevole Pezzotta. Lei già in un paio di giorni fa in un'intervista ha detto è una protesta giusta per una sanatoria che è stata una truffa nel 2009. Ma così è, cioè noi siamo in una situazione, adesso ognuno di noi cerca di buttare acqua sul fuoco, per carità, legittimo, queste persone vanno tutelate da ogni punto di vista, perché questo è il primo dovere, però nelle cose di questa natura io dico che è sempre meglio prevenire che poi cercare di curare. Noi abbiamo delle leggi che io ritengo sbagliate, penso alla Bossi-Fini, penso al fatto che se un lavoratore immigrato perde il posto di lavoro è obbligato dopo 6 mesi a diventare clandestino, penso a chi sfrutta la manodopera ma non è mai perseguito, perché non ho mai sentito nessuno che abbia utilizzato gli immigrati in modo irregolare e sia stato perseguito fortemente, alla fine tutto si scarica sui più deboli, come è successo stavolta. Per cui la protesta protesta non è che dico ma forse le badanti, non badanti, tutte storie. Il problema vero è che c'è una parte di gente che vive in Italia, magari ci vive da anni, ci ha lavorato, ha contribuito al nostro benessere in modo diretto o indiretto, che non si sente sicura. Però onorevole, è il problema. Cioè, è inutile che ci giriamo in giro col nostro perbenismo del cavolo. Il problema è che noi abbiamo reso insicuro un mare di cittadini. Basti vedere a nord, in molti comuni, quali sono le delibere che vengono approvate, discriminatorie, separatiste, cose di questo genere. Però onorevole, le chiedo, oggi Libero si pone questo problema, è così che si risponde? Cioè una città paralizzata, sassi e pipì sulla polizia, leggo il titolo di Libero, e poi Libero ci dice anche e ora paghino i danni. Vabbè, questa insomma è la voglia un po' dura di dire adesso la paghino pure. Onorevole Pezzotta, cioè questo è il modo di ma far... sì, ma lei, se mi lascia dire, glielo spiego. Dica. No, dico, io capisco che per noi che siamo tranquilli, sereni, abbiamo il nostro lavoro, facciamo le nostre cose, questa roba ci disturba. Ma come ci disturba? Forse sarebbe meglio neanche per farla. Ma io dico ogni tanto, proviamo, come dice quel vecchio proverbio indiano, a mettere i mocassini degli altri. Cosa avremmo fatto noi nelle loro situazioni? Perché non ci poniamo mai dalla parte dei più deboli? Ma io capisco che non bisogna paralizzare una città, che le forme di protesta devono essere regolate e cose di questa natura. Per carità, ho fatto 40 anni sindacalista, so benissimo quello che si deve fare. Però ci sono momenti, proprio perché non si previene le condizioni, perché si creano delle condizioni di un certo tipo anche dal punto di vista culturale, che poi certe cose scoppiano. Questa è la realtà. Sindaco, non si può continuare a far passare la logica, ad alimentare timori, paure nei confronti degli immigrati e poi sperare che non succeda nulla. No, succede, purtroppo mi succede. No, ma sentiamo, sindaco, lei si è mai messo in questi 18 giorni nei panni di queste persone? Certo, sì, nei panni, ce l'ha già detto, sono persone che magari hanno qualcosa da portare avanti come protesta, ma proprio a dire, beh, io non lo farei, non lo posso dire, sono il primo cittadino, ma forse io, catapultato in Egitto nella loro situazione, avrei fatto la stessa cosa. Non è così, nel senso che questi ragazzi, sono convinto, ma tutta la città lo pensa e lo ha visto, sono stati strumentalizzati, sono stati utilizzati come momento visibile per una protesta che era sì a fronte di una regolarizzazione nella quale evidentemente non tutti potevano rientrare, ma vorrei che ricordassimo i numeri, che cosa è accaduto in questa città. A fronte di 11.241 domande, ne sono state respinte 1.700, quindi non stiamo parlando di una regolarizzazione che non ha funzionato. È evidente che chi aveva reati o chi aveva situazioni non compatibili non poteva essere regolarizzato. O la legge è una cosa seria, o il rischio è che alle nostre città noi diamo confusione, caos, delinquenza. Qui c'è una situazione che, ripeto, è umana. Io e la mia città da sempre ci poniamo i problemi di chi ha difficoltà, straniero o italiano che sia. Da questo punto di vista è evidente che noi siamo nati fortunati ed altri lo sono certamente molto meno, ma smessa questa constatazione, consapevolezza, dobbiamo anche capire che oggi dobbiamo porci il problema da un punto di vista della gestione delle nostre città, sapendo che ci sono situazioni ammissibili e altre no. Oggi noi abbiamo città che sono piene, tutte, la mia come molte altre, di stranieri che non fanno nulla, che non hanno lavoro, che non sanno come campare, che non sanno in molti casi dove andare a dormire. No, non era il caso di questi, bisogna dire. Non era il caso di questi. Guardi che alla fine il tema dei lavoratori irregolari è un tema insomma molto difficile da andare a verificare. Le assicuro che sono situazioni, purtroppo l'integrazione delle leggi sull'immigrazione non hanno funzionato, un po' perché magari erano deboli le leggi, un po' perché sono state applicate male e gestite male. Io credo che però noi, e questo lo dico davvero con convinzione, dobbiamo anche smettere questi panni di sensi di colpa, perché il nostro paese e le nostre città, i nostri comuni, tutti danno risposte dei cittadini stranieri che sono sul nostro suolo, che non vengono dati in nessun'altra parte del mondo. A partire dalle risposte sanitarie. Do le informazioni sul traffico, poi qualche ascoltatore, ritorniamo con gli ospiti. Se riesce ancora a stare un minuto l'avvocato Vicini, ancora una domanda per lui prima di liberarlo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora il 62% per ora su Radio24.it dice no, protesta non legittima, quella degli immigrati. Avvocato Vicini, le chiedo, è vero che ieri i quattro hanno cercato, nel giorno molto convulso delle trattative, a dire scendiamo se regolarizzate tutti quelli nella nostra situazione, credo 1700? Ci hanno provato a fare una causa collettiva, diciamo così. Ma questa era finita all'inizio la loro richiesta, loro non sono saliti per risolvere la loro posizione personale. Si tratta di persone che erano estremamente determinate, estremamente consapevoli e che ponevano un problema che riguardava a Brescia non solo 1700 persone, perché questi sono dati parziali e i dati definitivi porteranno sicuramente questo numero a lievitare, e in Italia ad oggi si parla di 50.000 persone che si trovano in questa situazione. Sì. Però il sindaco dice se c'è una legge, voglio dire, la legge può piacere o non piacere. C'è una legge, però penso che sia interesse della società italiana che queste persone che hanno dato i loro documenti, che hanno versato contributi e che vogliono emergere da una condizione di irregolarità e di clandestinità siano poste in condizione di farlo, perché non conviene a nessuno che restino qui destinate allo sfruttamento del certo. lavoro. Cioè, sono le persone che vorrebbero vivere onestamente, ma a volte la burocrazia, la legge non glielo consente, poi rischiano di finire invece nella sacca della criminalità, poi non dobbiamo lamentarci. Anche questo è un discorso sicuramente legittimo. Voglio sentire, ecco, da Brescia, ci chiamano in molti ovviamente, Cristiano da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica, lei è mai passato sotto la gru in questi giorni? Sì, io abito a poche centinaia di metri. E quello che volevo dire è che nella prima settimana degli immigrati, quando stavano sulla gru, non c'era nessun blocco al traffico, problemi, passavano gli autobus, passava chiunque. Eh beh, gli ultimi giorni si sono un po' esacerbati gli animi. Sì, a causa, secondo me, la gestione della crisi è stata sbagliata. Hanno cercato di farli scendere con la forza, assediandoli praticamente. E questa ha ovviamente esacerbato gli animi anche da parte delle persone che stavano purtroppo. Diciamo, non c'è qui il questore a capire, poi nessuno di noi è questore a capire come si gestisce una situazione di persone a 60 metri di altezza che minacciano di tutto. Lei però condivide questa protesta o no, Cristiano? Guardi, io so che queste persone avevano richiesto per un mese con un presidio da in un'altra parte della città, pacifico, senza blocchi alla circolazione, di essere semplicemente ascoltati. Non lo erano e hanno commesso un'illegalità, purtroppo. Nell'illegalità. E hanno trovato l'unico modo per farsi sentire. Grazie. Non dovrebbe andare così. Vorrei stare a Brescia. Simona, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono passata 5 minuti fa sotto la gru. Sì. E dopo sgombra. Tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni sul costo del tenere fermo la gru, stamattina il cantiere è chiuso, è ancora presidiato dalla polizia e carabinieri, ma niente si muove all'interno del cantiere. Beh, sarà questione di ore, immagino. Sì, vedremo. Ci sarà, se è presidiato dalla polizia, magari temono, non so, qualche altro gesto. No? Ma se hanno così, hanno però, penso che il cantiere sia pronto per ripartire, visto penso che è stato nel controllo della polizia per tutti questi giorni. Penso proprio di sì. Comunque non era un cantiere molto attivo neanche prima. Non era attivo. Adesso lo chiederemo tra poco al sindaco, però onorevole Pezzotti, le voglio chiedere questo, cioè lei è così convinto, insomma, che anche la modalità della protesta sia stata questa? Ci sono stati anche degli episodi di violenza? Ma non c'è adesso, ma veramente secondo me non riesco a capire. Io ho già detto che probabilmente la protesta può aver avuto dei momenti di radicalizzazione che non possono anche essere non compresi. Però quando scattano meccanismi di questo genere non si sa mai dove vanno a finire. Cioè le persone che si trovano in difficoltà, vivono una condizione esistenziale soggettiva totalmente diversa da noi che stiamo lì ad osservare che cosa succede. In questo senso dico, probabilmente ci sono stati commessi nei termini della relazione, delle convinzioni, delle trasmissioni di idee, di pareri, ne sono stati commessi probabilmente degli errori. Si è pensato che bastasse, diciamo così, forzare la situazione per risolverla. Queste situazioni non si risolvono con il dialogo, con il confronto, con il ragionamento, con il penetrare dentro alcune convinzioni. E poi continuo a dire, se la questione, visto che come abbiamo anche sentito, si sapeva che esisteva, se la si affrontava prima con più chiarezza, con più tranquillità, probabilmente non saremmo arrivati a questi elementi. Cioè, bisogna considerare l'insieme del percorso, perché se il giudizio finale è sempre un giudizio, io credo che noi abbiamo come italiani il dovere di rendere a queste persone, diciamo, una permanenza tranquilla, di applicare e rispettare la legge, sì, ma di tenere anche conto delle situazioni che sono mutate. Cioè, qui nessuno di noi parla. C'è la crisi economica. C'è la crisi economica, queste persone sono quelle che pagano più di altri e che pertanto avrebbero bisogno in questa fase di una tutela diversa. La legge che prevede che dopo un periodo di tempo, se non hai un lavoro, diventi clandestina e pertanto puoi essere espulso, sì, è in una situazione economica di questo genere sbagliata, perché se questo è stato lì, se un immigrato è qui da 10 anni che è qui, perché lo dobbiamo cacciare dopo che, perché ha perso il lavoro, perché non gli diamo una possibilità diversa? Questo... noi dobbiamo ragionare in termini proprio di contestualizzazione. No, ma infatti problemi. Questo è un tema anche del dibattito sull'immigrazione. Tra l'altro, io mi pare che anche a Milano ci siano degli immigrati, non so, ancora su una torre, non so se sono scesi oppure no, ma insomma, il rischio che ci siano anche delle cose di emulazione ci può essere. Sindaco, ho 20 secondi, però me lo prometta, tranquillizzi la signora, questo cantiere riapre, è attivo, non attivo? Ma mi sembra che non si sia capita la situazione, il cantiere è stato devastato in questi 15 giorni. La gru non è immediatamente attivabile, è una cosa che riguarda evidentemente i tecnici, però non capisco, mi sembra che altri siano i problemi che non il fatto che alle 9 della mattina dopo non sia già riaperto il cantiere. Sì, anche a me sembra che sia una questione di ore, no, insomma, la polizia dovrà fare i suoi rilievi. Il cantiere non esistesse, è un cantiere che... ma il problema non è il cantiere, sì, no, ma è l'atteggiamento che qui temo... non si sia ancora compreso fino in fondo. In Italia, nel nostro paese, nessuno, italiano o straniero, può pensare di ricattare né una città né un paese. Con le ragioni che si hanno, con tutte le buone ragioni, con tutte le situazioni che possono essere così condivisibili. Non è mancato il dialogo, io stesso prima ancora che si occupasse questa gru ho ricevuto in loggia, la sede del comune, tutte le parti in causa cercando con loro di trovare una soluzione perché venisse data visibilità alle loro ragioni, se tali ragioni ci fossero. Sindaco, però io qua mi devo fermare, è una vicenda che comunque vedremo di monitorare e capire se ci saranno altre situazioni simili, che pone un problema che comunque esiste, quello dei rapporti con l'immigrazione. Ci fermiamo, grazie a tutti, Antonella Migliaccio in redazione con Peter Bescapè, e la linea va come sempre a Oscar Giannino. A domattina.